Sì, pronto, siamo in diretta con un compagno da Brescia, pronto? Pronto, sì, ciao. Sì. Ciao a tutti. Ciao, bene. Allora, volevamo sapere appunto gli ultimi aggiornamenti da un'oretta a questa parte. Puoi aggiornarci? Sono successe delle cose? Il presidio persiste, permane? Dici il presidio persiste, anzi con il passare del tempo, cioè la gente che smette di lavorare, il presidio aumenta di presenze. Adesso penso che ci siano 500 persone che sostanzialmente fronteggiano il cordone di polizia. Poi siamo in attesa dell'esito di un incontro che si sta tenendo in prefettura, all'incontro al quale non sono state invitate le rappresentanze degli immigrati, sono stati invitati i sindacati confederali, la curia, e quindi vediamo quale sarà l'esito di questo incontro. L'impressione è che qui si voglia impedire al presidio di continuare a portare sostegno ai migranti sulla gru, e chiaramente questa è un'evenienza che non vogliamo prendere in considerazione. Dalla questura sono stati rilasciati alcuni dei compagni che erano trattenuti là questa mattina, però ce ne sono ancora 9, mi pare, in questo momento ancora trattenuti, e tre di loro si prefigura sicuramente l'arresto per resistenza pubblica ufficiale. Le posizioni degli altri sono ancora al vaglio della questura, insomma. Quindi una situazione ancora fluida e non cristallizzata. Certo è che insomma, il presidio prosegue con determinazione, e stiamo in una situazione continua a divenire. Stiamo fra un'oretta, poi ci sarà anche un'assemblea, un momento informativo, un momento assembleare per decidere poi anche in base alle notizie che arriveranno dalla prefettura come continuare e quali iniziative porre in essere, anche a sostegno poi dei compagni che sono in stato di arresto. Sì, bene, abbiamo sentito, sentivo da un compagno poco fa per telefono, di uno sciopero della fame, è stato deciso? I sei immigrati sulla gru hanno detto che rifiutano il cibo che diverrà portato dalla polizia fino a che non viene ripristinato il presidio, quindi questo è il segno della loro determinazione a portare avanti la lotta. È un gesto estremo che fra l'altro mi preoccupa, nel senso che a 35 metri d'altezza, in condizioni di equilibrio precario, certo, i ragazzi sopra la gru devono stare in forte, devono stare bene, però insomma, è un segnale della loro determinazione, della loro forza nel portare avanti questa lotta. E proprio questo rafforza a maggior ragione chi è sotto a essere presente, e diciamo la parte migliore della città solidale a affiancarli in questa lotta. È l'unico dato positivo della giornata a questo momento, è il fatto che ininterrottamente da questa mattina centinaia di persone, nonostante sia una giornata feriale, nonostante l'orario lavorativo, sono state presenti e continuano ad affluire, e quindi anche questa operazione di polizia alla fine si tramuta in un boomerang per le istituzioni, per le forze di polizia, perché non fa altro che rafforzare la mobilitazione e la voglia di portarla avanti. Benissimo, noi ti ringraziamo e ci sentiamo magari più tardi per ulteriori aggiornamenti. Grazie, grazie a tutti. Ciao.